Capitolo 20. Gli ospiti di Mrs. Gibson. Un giorno, con somma sorpresa di Molly, fu annunciata la visita di Mr. Preston. Lei e Mrs. Gibson sedevano insieme nel salotto. Cinzia era uscita, era andata a far spese in città, quando la porta si aprì. Il nome fu riferito e il giovanotto entrò. Il suo ingresso sembrò causare più confusione di quanto Molly potesse giustificare. Egli si fece avanti con la stessa aria di tranquilla sicurezza con cui li aveva ricevuti alla Manor House di Ashcombe. Con il suo completo da equitazione, per via dell'esercizio appena svolto all'aria aperta, appariva decisamente affascinante. Ma la fronte liscia di Mrs. Gibson si corrugò un poco vedendolo, e la sua accoglienza fu molto più fredda di quella che di solito accordava ai suoi visitatori. Essa tradiva però una certa agitazione, da cui Molly fu lievemente sorpresa. Quando Mr. Preston entrò nella stanza, Mrs. Gibson era intenta al suo infinito lavoro di lana pettinata al telaio, ma alzandosi per ricevere il visitatore, rovesciò il cestino da ricamo e, rifiutando l'aiuto offerto da Molly, si mise a raccogliere personalmente tutti i rocchetti, prima di invitare il giovane ad accomodarsi. Quest'ultimo rimase in piedi, con il cappello in mano, fingendo un interesse per il recupero del filo che Molly era sicura non provasse affatto. Infatti, per tutto il tempo i suoi occhi giravano per la stanza e prendevano nota dei dettagli dell'arredamento. Alla fine sedettero tutti e la conversazione incominciò. È la prima volta che vengo a Hollingford da quando vi siete sposata, Mrs. Gibson, altrimenti sarei passato certamente prima a porgervi i miei rispetti. So che siete molto occupato ad Ashcombe, non mi aspettavo una vostra visita. Lord Kemnor è alle Torri? Non ricevo notizie di Lady Kemnor da più di una settimana. No, sembra sia stato trattenuto a Bath, ma io ho ricevuto da lui una lettera con dei messaggi per Mr. Sheepshanks. Temo che Mr. Gibson non sia in casa, vero? No, sta spesso fuori, quasi costantemente, posso dire. Non avevo idea che l'avrei visto così poco. La moglie di un medico conduce una vita molto solitaria, Mr. Preston. Non direi che potete definirla solitaria, visto che avete sempre a disposizione una compagnia come quella di Miss Gibson, obiettò lui inchinandosi a Molly. Oh, ma per una moglie io definisco solitudine quando il marito è assente. Il povero Mr. Kirkpatrick non era mai contento se io non l'accompagnavo dappertutto, nelle sue passeggiate, nelle sue visite. Mi piaceva che fossi sempre con lui. Ma per certe ragioni Mr. Gibson pensa che gli sarei d'intralcio. Non credo riusciresti a stargli dietro su una sella da Amazzone mentre cavalca Black Bess, commentò Molly, e a meno che non ci riusciate, è difficile che possiate seguirlo nei suoi giri in lungo e largo su strade accidentate. Ma potrebbe guidare un brougham, lo ripeto spesso, così io potrei usarlo per uscire la sera. Questa è stata una delle ragioni per cui non sono stata al ballo di beneficenza di Hollingford. Non mi sono potuta convincere a salire sulla sudicia carrozza della George. Per l'inverno prossimo dobbiamo davvero dissuadere papà Molly. Non sta bene per te e per... Si controllò all'improvviso, guardando furtivamente Mr. Preston, per vedere se si fosse accorto di quella brusca interruzione. Ovviamente lui ci aveva fatto caso, ma non aveva intenzione di dimostrarlo. Si rivolse a Molly e disse: «Siete mai stata a un ballo pubblico, Miss Gibson?» «No», rispose Molly. «Quando sarà il momento, sarà un gran piacere per voi.» «Non ne sono sicura. Mi piacerebbe se avessi molti compagni di ballo. Ma temo che non conoscerò tanta gente. E immaginate che i giovanotti non abbiano i loro sistemi e i loro mezzi per farsi presentare alle belle ragazze. Quello era esattamente uno dei discorsi per cui Molly lo aveva trovato sgradevole nella passata occasione, e oltretutto era stato pronunciato in un modo così ineducato da dimostrare che era inteso come complimento personale. Molly fu molto soddisfatta di se stessa per come riuscì a continuare a chiacchierare con noncuranza, proprio come se non l'avesse sentito. «Preferisco non impegnarmi in anticipo», continuò, avvertendo dietro le palpebre chine che lui si sporgeva verso di lei e la fissava, determinato ad avere una risposta. «In effetti, le giovani donne sono sempre molto caute per quanto professino modestia», egli replicò, rivolgendosi a Mrs. Gibson con indifferenza. A dispetto della preoccupazione di Miss Gibson di non avere molti compagni, ella rifiuta la sicurezza di ottenerne uno. Immagino che Miss Kirkpatrick sarà tornata dalla Francia prima di allora. Aveva pronunciato queste parole esattamente con lo stesso tono usato prima, ma l'istinto di Molly le suggerì che questa nota era forzata. Alzò gli occhi. Egli stava giocando con il cappello come se non gli interessasse ricevere una risposta a quella domanda. Però ascoltava con attenzione e con un mezzo sorriso stampato sul volto. Mrs. Gibson arrossì un poco, esitò e disse: Sì, certo, mia figlia sarà qui l'inverno prossimo, credo, e direi che uscirà insieme a noi. Perché non può dire che Cinzia è già qui? Si chiese Molly, lieta però che la curiosità di Mr. Preston venisse ingannata. Il giovane sorrideva ancora, ma questa volta guardò dritto Mrs. Gibson e domandò: Spero abbiate buone notizie da parte sua. Sì, molto. E a proposito, come stanno i nostri vecchi amici Robinson? Penso tanto spesso alla loro gentilezza mentre ero ad Ashcombe. Cara e brava gente, vorrei poterli incontrare di nuovo. Riferirò loro il vostro cortese interessamento. Stanno molto bene, direi. Proprio in quel momento, Molly udì il familiare suono metallico del cancello che si apriva. Sapeva che doveva essere Cinzia. E consapevole che esisteva una qualche misteriosa ragione per cui Mrs. Gibson desiderava nascondere a Mr. Preston i movimenti della figlia e desiderosa, con una certa malizia di confonderlo, si alzò per lasciare la stanza e incontrare Cinzia sulle scale. Ma una delle matasse di filo che erano cadute si era impigliata la sua veste e i suoi piedi e prima che le si fosse liberata dell'impiccio, Cinzia aveva aperto la porta del salotto ed era apparsa lì, fissando la madre, Molly, Mr. Preston, ma senza avanzare di un passo. Il suo colore, che all'istante del suo ingresso era stato luminoso, svanì mentre li osservava, ma i suoi begli occhi, generalmente così dolci e seri, sembravano prendere fuoco e la sua fronte contrarsi mentre decideva di farsi avanti e prendere posto fra i tre, che la guardavano tutti con emozioni diverse. Si mosse lentamente con calma. Mr. Preston le si fece incontro di due passi con la mano tesa e l'espressione del viso colma di entusiasmo e di delizia. Ma lei non fece caso alla mano che le veniva porta, né alla sedia che le fu offerta. Sedette su un divanetto sotto una delle finestre e chiese a Molly di avvicinarsi. Guarda cosa ho comprato, disse. Questo nastro verde veniva a 14 pence alla yarda, questa seta a 3 scelline. E continuò così, costringendosi a parlare di quelle frivolezze come se per lei significassero tutto e come se non avesse attenzioni da sprecare per la madre e per il suo ospite. Mr. Preston prese l'imbeccata da lei. Anche lui si mise a parlare delle novità del giorno, dei pettegolezzi locali, ma Molly, che ogni tanto alzava gli occhi su di lui, fu quasi spaventata dalla livida espressione di rabbia repressa, pronta a tramutarsi in odio, che alterava la sua prestanza. Preferì non guardarlo più. Tentò invece di sostenere gli sforzi di Cinzia di continuare una loro conversazione separata. Tuttavia non riuscì a evitare di avvertire la fatica con cui Mrs. Gibson intensificava la propria cortesia, come per compensare la maleducazione di Cinzia e, se possibile, scongiurare l'ira dell'uomo. La donna non fece altro che parlare, come se il suo scopo fosse trattenerlo, laddove prima del ritorno di Cinzia si era concessa frequenti pause per dargli l'opportunità di andarsene. Nel corso di quella conversazione si arrivò a parlare degli Hamling. A Mrs. Gibson non dispiaceva mai soffermarsi sull'amicizia di Molly con quella famiglia altolocata e quando la ragazza sentì pronunciare il proprio nome, la matrigna stava raccontando. La povera Mrs. Hamley non poteva quasi fare a meno di Molly. La considerava una figlia, specie negli ultimi tempi, quando temo dovete patire un bel po' di angosce. Mr. Osborne Hamley, immagino l'abbiate sentito nominare. Beh, non è andato così bene al college e loro si erano aspettati tanto da lui, i suoi genitori, capite? Però che importanza aveva? Non doveva certo guadagnarsi da vivere. Io la definisco un'ambizione decisamente sciocca quando un giovanotto non deve intraprendere una professione. Beh, in ogni caso, lo Squire ora sarà soddisfatto. Ho letto il Times questa mattina che ha pubblicato i risultati degli esami a Cambridge. Il secondogenito ha lo stesso nome di suo padre, Roger? Sì, rispose Molly alzandosi e facendosi più vicina. Si è classificato primo, ecco, comunicò Mr. Preston, quasi irritato con se stesso per avere informazioni che potessero farle piacere. Molly tornò presso Cinzia. Povera Mrs. Hamley, commentò teneramente quasi tra sé e sé. Cinzia le prese la mano in armonia con lo sguardo dolce e triste di Molly, e non tanto perché comprendesse tutto ciò che le stava passando per la mente, cosa che anche la stessa Molly faticava a capire. Una morte avvenuta prematuramente. La domanda se i defunti sapessero ciò che accadeva sulla terra che avevano lasciato, il fallimento del brillante Osborne, il successo di Roger, la vanità dei desideri umani. Tutti questi pensieri e ciò che ne conseguiva erano aggrovigliati inestricabilmente nella sua testa. Si riprese in pochi minuti. Mister Preston stava dicendo degli Hamley tutte le cose più spiacevoli a cui riusciva a pensare in un tono di falsa simpatia. Il povero vecchio Squire, che non è il più saggio fra gli uomini, ha amministrato molto male la sua proprietà. E Osborne Hamley è un gentiluomo troppo delicato per capire come si possa crescere il valore della terra, anche se possedesse il capitale per farlo. Un uomo che avesse una conoscenza pratica di agricoltura e qualche migliaio in denaro contante potrebbe aumentare gli introiti a 8.000 o giù di lì. Ovviamente Osborne cercherà di sposare una donna ricca, la famiglia è antica e ha buone radici, e lui non potrà rifiutare una discendente del ramo del commercio, anche se direi che sarà lo squire a obiettare invece sua. Però, insomma, il giovanotto non è l'uomo giusto per la situazione. No, la famiglia decadrà molto rapidamente ed è un peccato quando queste casate sassoni spariscono dal territorio. Ma è questo il destino degli Hamley. Persino il primo classificato, che si tratta davvero di Roger Hamley, avrà speso tutte le sue facoltà in un unico sforzo. Non si viene mai a sapere di un senior Wrangler che dopo gli esami dimostri di valere qualcosa. Naturalmente otterrà un incarico nel suo college, per lui almeno questa sarà una fonte di reddito. Io ho fiducia nel signor Wrangler, intervenne Cinzia con la sua voce alta e distinta che riecheggiò nella stanza. E da quando ha preso di Mr. Roger Hamley, credo che manterrà l'eminenza che si è guadagnato. E non penso che la casata degli Hamley sia prossima all'estinzione, né in ricchezza, né in fama, né in reputazione. Sono fortunata a godere della buona opinione di Miss Kirkpatrick, commentò Mr. Preston alzandosi per congedarsi. Cara Molly, sussurrò Cinzia, io non so niente dei tuoi amici, gli Hamley, se non che sono tuoi amici, e ciò che tu mi hai raccontato di loro. Ma non permetto che quell'uomo ne parli in questo modo, con i tuoi occhi continuamente pieni di lacrime. Avrei preferito giurare che gli Hamley dispongono di tutti i talenti e di tutta la buona fortuna possibili su questa terra. La sola persona di cui Cinzia sembrava veramente aver paura era Mr. Gibson. Quando lui era presente, la giovane prestava attenzione al proprio modo di parlare e mostrava un maggiore rispetto nei confronti della madre. Il suo evidente riguardo per Mr. Gibson e il desiderio di ottenere la sua buona opinione le mettevano un freno di fronte a lui. E in questo modo ella si guadagnò i suoi favori, poiché l'uomo la considerava vivace, intelligente e dotata della conoscenza del mondo necessaria a renderla una compagnia molto opportuna per Molly. Per la verità, Cinzia suscitava la stessa impressione di tutti gli uomini. All'inizio erano stati colpiti dal suo aspetto esteriore, poi dai suoi modi aggraziati e censori, che li affascinavano più che se lei avesse detto: voi siete saggio e io sciocca. Abbiate pietà della mia stoltezza. Era un suo modo d'essere, non significava niente e lei ne era appena consapevole, ma restava comunque molto accattivante. Persino il vecchio William, il giardiniere, ne subiva l'influenza. Egli rivelò alla sua confidente Molly: Miss, questa è una signorina rara. I suoi modi sono eleganti e persuasivi. Quando viene la stagione le insegnerò a fare innesti con le rose e vi garantisco che imparerà a essere piuttosto acuta, sebbene per ciò che dice sembri stupida. Se Molly non avesse avuto l'indole più dolce del mondo, sarebbe stata gelosa di tutta l'ammirazione sciorinata ai piedi di Cinzia. Ma non le venne mai in mente di mettere a paragone le dosi di stima ed affetto che ciascuna riceveva. Eppure, una volta, ebbe come l'impressione che Cinzia stesse invadendo il suo territorio. Osborne Hamley aveva ricevuto l'invito per la tranquilla cenetta e l'aveva declinato, ma ritenne giusto passare in visita poco tempo dopo. Era la prima volta che Molly incontrava qualcuno della famiglia dopo aver lasciato Hamley Hall, da quando Mrs. Hamley era morta. E c'erano tante cose che desiderava chiedere. Tentò di attendere pazientemente finché Mrs. Gibson non avesse esaurito la sua prima sequela di infinite nullità. Poi intervenne con le sue timide domande. Come stava lo Squire? Era tornato alle sue vecchie abitudini. La sua salute ne aveva risentito e ogni richiesta veniva posta con tocco leggero, delicato, come per fasciare una ferita. Esitò un po', solo un po', prima di parlare di Roger, perché per un solo istante la sua mente fu attraversata dal pensiero che forse Osborne soffrisse troppo acutamente il contrasto tra la propria carriera universitaria e quella del fratello, per gradire che se ne facesse menzione. Poi però ella ricordò l'amore fraterno, così generoso, che era sempre esistito tra i due, e aveva appena introdotto l'argomento quando Cinzia, obbedendo alla convocazione della madre, entrò nella stanza e si mise al lavoro. Nessuno avrebbe potuto essere più silenzioso. Ella non pronunciò neanche una parola, ma Osborne sembrò subito cadere vittima del suo incantesimo. Non dedicò più a Molly la propria esclusiva attenzione. Le diede risposte brevi e secche e gradualmente, senza che Molly capisse bene come, egli si era girato verso Cinzia e si stava rivolgendo a lei. Molly vide l'espressione soddisfatta sul volto di Mrs. Gibson. Forse fu la mortificazione di non aver appreso tutto ciò che desiderava a proposito di Roger a conferirle una sensibilità più acuta del solito. Ma quel che è certo è che tutto d'un tratto la ragazza capì che a Mrs. Gibson non sarebbe dispiaciuto un matrimonio tra Osborne e Cinzia, e che quell'occasione significava per lei un inizio molto promettente. Ricordando il segreto di cui era venuta a conoscenza a suo malgrado, Molly osservò il comportamento del giovane come in rappresentanza degli interessi della moglie assente, ma dopotutto, pensando nella stessa misura alla possibilità che lui attraesse Cinzia e alla sconosciuta e misteriosa Mrs. Osborne Hamley. I modi di lui esprimevano un grande riguardo e una forte inclinazione per la bella ragazza con cui stava parlando. Vestiva lutto, il che esaltava la sua figura esile e la delicatezza del suo volto elegante, ma negli sguardi e nelle parole non c'era segno di corteggiamento, per quanto Molly potesse capire del significato di quella parola. Anche Cinzia era estremamente tranquilla, era sempre più quieta in compagnia degli uomini che con le donne. Tale passività costituiva parte del fascino della sua dolce avvenenza. Discorrevano della Francia. La stessa Mrs. Gibson aveva trascorso lì 2 o 3 anni della sua infanzia e il recente ritorno di Cinzia da Boulogne lo rese un argomento di conversazione molto naturale. Molly però ne era esclusa e alla fine, con il cuore ancora insoddisfatto per i mancati particolari del successo di Roger, dovette alzarsi e ricevere da Osborne un saluto non molto più prolungato né più intimo di quello rivolto a Cinzia. Non appena egli se ne fu andato, Mrs. Gibson iniziò a elogiarlo. Beh, davvero comincio ad avere fiducia negli antichi lignaggi. Che gentiluomo, com'è educato e piacevole, così diverso da quello sfrontato di Mr. Preston? Continuò, guardando Cinzia con un velo d'ansia. Cinzia, ben consapevole che ci si attendeva una sua replica, commentò freddamente. Mister Preston non migliora una conoscenza più approfondita. C'è stato un periodo, mamma, in cui sia tu che io lo ritenevamo molto gradevole. Non me lo ricordo. Tu hai una memoria più netta della mia. Ma stavamo parlando di questo meraviglioso Mister Osborne Hamley. Beh, Molly, tu non facevi che menzionare suo fratello, e Roger di qua, e Roger di là. Non riesco a pensare a come sia stato possibile che tu abbia nominato così raramente questo giovane. Non sapevo di aver parlato così spesso di Mr. Roger Hamley, osservò Molly arrossendo un poco. È che l'ho incontrato più spesso, era più spesso a casa. Bene, bene, va tutto bene, mia cara. Direi che lui è più adatto a te, ma davvero, quando ho visto Osborne Hamley vicino alla mia Cinzia, non ho potuto fare a meno di pensare, ma forse è meglio che non vi dica cosa stavo pensando. È solo che sono entrambi così al di sopra della media in quanto a bellezza, e ovviamente questo suggerisce delle conseguenze. Capisco perfettamente cosa stavi pensando, mamma, fece Cinzia, con il maggiore autocontrollo possibile. E anche Molly, non ho dubbi. Beh, non c'è niente di male in questo, ne sono certa. Non l'hai sentito dire che, sebbene non gradisca lasciare il padre in questo momento, tuttavia, quando suo fratello Roger tornerà da Cambridge, si sentirà più libero? È stato praticamente come dire: se mi inviterete a cena allora, sarò felicissimo di accettare. I polli saranno più economici e la cuoca è così abile nel disossarli e farcirli con carne macinata e verdure. Tutto sembra girare nel verso giusto. E Molly, mia cara, sai che non mi dimentico di te. In seguito, quando sarà il turno di Roger Hamley di fermarsi a casa con il padre, inviteremo anche lui per una delle nostre tranquille cenette. Molly colse il senso di queste parole con molta lentezza, ma dopo un minuto il loro significato le fu chiaro e lei arrossì violentemente. Specialmente perché si era accorta che Cinzia osservava divertita questa sua presa di coscienza. Temo che Molly non sia propriamente grata, mamma. Se fossi in te, non mi darei pena di organizzare una cena per lei. Riversa su di me la tua gentilezza. Molly restava spesso sbalordita dai discorsi che Cinzia faceva alla madre, e questa fu una di quelle occasioni. Ma era molto ansiosa di dire qualcosa per proprio conto. Era così irritata per ciò che le ultime parole di Mrs. Gibson sottintendevano. Mister Roger Hamley è stato davvero buono con me. Ha trascorso tanto tempo a casa mentre io ero lì e Mister Osborne Hamley invece no. Questa è la ragione per cui ho parlato molto più dell'uno che dell'altro. Se lui avesse, perdendo il filo del discorso nella difficoltà di trovare le parole, non penso che dovrei. Oh, Cinzia, invece di ridere di me, credo che dovresti darmi una mano a esprimermi. Al contrario, Cinzia deviò la conversazione. L'idolo della mamma mi dà una idea di debolezza. Non riesco a decidere se sia fisica o mentale. Che ne pensi, Molly? So che non è di costituzione robusta, ma è molto intelligente e ha tante qualità. Lo dicono tutti, persino papà, che di solito non elogia i giovanotti. Questo mi ha resa ancora più perplessa nel momento in cui i suoi risultati al college si sono rivelati così scarsi. E allora è una debolezza di carattere. Sono sicura che c'è una fragilità da qualche parte, però lo trovo decisamente gradevole. Deve essere stato molto bello vivere a Hamley Hall. Sì, ma ormai è tutto finito. Oh, sciocchezze! Commentò Mrs. Gibson, di nuovo attenta dopo aver contato i punti del suo lavoro. I due giovanotti verranno a cena da noi piuttosto di frequente, vedrete. A vostro padre piacciono e io mi sono sempre ripromessa di dare il benvenuto ai suoi amici. Non possono portare il lutto per sempre. Mi aspetto che li vedremo molto spesso e che le due famiglie diventeranno decisamente intime. Dopotutto, questa brava gente di Hollingford è terribilmente retrograda e oserei dire piuttosto ordinaria. Capitolo 21. Sorellastre. Parve che le previsioni di Mrs. Gibson potessero avverarsi. Infatti, Osborne Hamley ritrovò con una certa frequenza la strada del suo salotto. Non c'è dubbio che a volte i profeti possono incoraggiare la realizzazione dei loro oracoli, e Mrs. Gibson non rimase certo inerte. Molly era totalmente confusa dalle maniere e dal comportamento di Osborne e gli parlava di occasionali assenze da Hamley Hall senza specificare dove fosse stato. Ma quella non corrispondeva all'idea che Molly aveva degli uomini sposati, i quali immaginava lei dovevano avere una casa e dei domestici, occuparsi delle rendite e delle tasse e vivere con le loro spose. Chi poteva essere questa misteriosa moglie, la cui identità scemava nell'irrilevanza a cospetto dell'enigma del luogo in cui si trovasse? Londra, Cambridge, Dover e persino la Francia erano menzionati da lui come luoghi che aveva visitato nel corso di quei vari e brevi viaggi. Queste circostanze trapelavano quasi casualmente, come se egli non fosse consapevole di ciò che stava rivelando. A volte lasciava cadere frasi come: "Ah, deve essere stato il giorno della mia traversata. C'era tempesta e come? Invece di metterci solo 2 ore, ce ne sono volute quasi 5." Oppure: "Ho incontrato Lord Hollingford a Dover la scorsa settimana e mi ha detto: il freddo che c'è ora è nulla in confronto a cos'era Londra giovedì. Il termometro è sceso a 15 gradi." Forse nel rapido fluire della conversazione questi dettagli si facevano notare solo da Molly, i cui interessi e la cui curiosità giravano sempre intorno al segreto dal quale era ossessionata, nonostante si rimproverasse continuamente del fatto di consentire ai propri pensieri di indugiare su ciò che doveva rimanere un mistero. Le era anche evidente che Osborne non era molto felice a casa. Egli aveva perso quel lieve tocco di cinismo che ostentava al tempo in cui ci si attendeva che al college facesse meraviglie, e quello era l'unico risultato positivo del suo fallimento. Se non si dava pena di apprezzare gli altri e le loro imprese, Perlomeno la sua conversazione non era più così ampiamente spruzzata del pepe della critica. Era più assente, non così socievole, pensava Mrs. Gibson senza dirlo. Il giovane aveva una brutta cera che però poteva dipendere dalla vera depressione di spirito che Molly di tanto in tanto scorgeva tra le pieghe delle sue superficiali e frivole chiacchiere. Di quando in quando, parlando con lei, egli si riferiva ai giorni felici volati via o a quando mia madre era viva. E allora la sua voce si spezzava e la sua espressione sincopiva, e Molly desiderava ardentemente esprimere la propria intensa simpatia. Osborne non menzionava frequentemente il padre, e quando lo faceva, Molly pensava di percepire che qualcosa di quel doloroso riserbo che aveva notato l'ultima volta a Hamley Hall esistesse ancora tra loro. Quasi tutto ciò che sapeva dell'intimità della famiglia l'aveva appreso da Mrs. Hamley e non era sicura che suo padre ne fosse a conoscenza. Perciò non voleva porgli domande troppo specifiche, né lui era il tipo al quale chiedere chiarimenti in merito ai problemi domestici dei suoi pazienti. A volte Molly si domandava se non fosse tutto un sogno, quella veloce mezz'ora nella biblioteca di Hamley Hall, quando era venuta a conoscenza di un fatto che sembrava così terribilmente importante per Osborne e che pure mutava di così poco il suo tenore di vita, sia nelle parole che nelle azioni. Nel corso delle 12-14 ore che lei aveva passato a Hamley Hall dopo l'incidente, né lui né Roger avevano fatto ulteriori allusioni al matrimonio. Sembrava proprio un sogno. Probabilmente Molly sarebbe stata ancora più a disagio nel mantenere il segreto se Osborne le fosse sembrato particolarmente premuroso nelle sue attenzioni verso Cinzia. Lei lo divertiva e lo attraeva, era evidente, ma non in modo vivace e appassionato. Egli ammirava la sua bellezza e sembrava soggetto al suo fascino, ma si allontanava da lei per sedersi accanto a Molly se qualcosa gli ricordava sua madre, e di questo argomento poteva parlare con lei sola. Ma veniva con tale frequenza a far visita ai Gibson che la padrona di casa può essere giustificata per l'idea che si era messa in testa e che era tutta a beneficio di Cinzia. Il giovane gradiva la rilassatezza, l'amichevolezza e la compagnia di due ragazze intelligenti, superiori alla media sia per avvenenza che per modi, e una delle quali era legata a lui da un rapporto particolare, perché sua madre, la cui memoria gli serbava con tanta emozione, le aveva voluto un mondo di bene. Consapevole di essere uscito dalla categoria degli scapoli, egli era forse troppo incurante del fatto che gli altri non ne sapevano nulla e alle possibili conseguenze della loro ignoranza. In un certo senso, a Molly dispiaceva essere la prima a introdurre nel discorso il nome di Roger, perciò perse più di un'occasione per avere notizie di lui. Osborne era spesso così languido o distratto da seguire semplicemente il corso della conversazione. E Roger non era preminente nei pensieri di Mrs. Gibson, per la quale egli era un ragazzo goffo che non le aveva prestato particolare riguardo e per di più un secondogenito. Cinzia non l'aveva mai visto e non accadeva spesso che le prendesse il ghiribizzo di parlare con lui. Da quando aveva ottenuto il primo posto nella classifica dei voti di matematica, egli non era più tornato a casa. Questo Molly lo sapeva e sapeva anche che stava lavorando duramente a qualcosa. Immaginava si trattasse di un incarico all'università e niente più. Il tono di Osborne quando parlava di lui era sempre lo stesso. Ogni parola, qualsiasi inflessione della voce, trasudavano affetto e stima, anzi, persino ammirazione. E tutto questo da parte di un fratello impassibile che di rado spingeva tanto in là i suoi sforzi. «Ah, Roger!» esclamò un giorno. Molly colse subitamente il nome, pur non avendo sentito cosa era stato detto prima. È unico su mille, veramente. Dubito che abbia eguali per bontà e per concretezza messe insieme. Molly, disse Cinzia dopo che Osborne Hamley si fu congedato, che tipo è questo Roger Hamley? Non si riesce a capire se ci sia da credere alle lodi di suo fratello. È l'unico argomento sul quale si dimostri entusiasta. L'ho notato un paio di volte. Mentre Molly esitava per decidere da che parte incominciare la sua lunga descrizione, Mrs. Gibson si intromise. Questo non fa che dimostrare la dolcezza dell'indole di Osborne Hamley, elogiare il fratello in quel modo. Capisco che è un signor Wrangler e buon pro gli faccia, non lo nego, ma in quanto a conversazione, è la pesantezza in persona. Un tipo grande e grosso, per di più goffo, che sembra non sappia che 2 più 2 fa 4, per quanto sia un genio della matematica. A vederlo si fatica a credere che sia il fratello di Osborne Hamley. Avrei pensato che non avesse alcun profilo. Tu cosa pensi di lui, Molly? Insistette Cinzia. Mi piace, rispose Molly. È stato molto gentile con me. So che non è bello quanto Osborne. Era piuttosto difficile dire queste cose mantenendo la calma, ma Molly ci riuscì, ben sapendo che Cinzia non sarebbe stata tranquilla finché non le avesse estorto una qualche opinione. Immagino che tornerà per Pasqua, disse Cinzia, e allora lo vedrò da me. È un gran peccato che il lutto che portano impedisca loro di partecipare al ballo di beneficenza di Pasqua, lamentò Mrs. Gibson. Non mi piacerebbe portarvici, ragazze, se poi non avrete nessuno che balli con voi. Mi metterebbe in una posizione davvero imbarazzante. Vorrei che potessimo unirci al gruppo delle torri. Questo vi assicurerebbe dei compagni perché la famiglia porta sempre un bel numero di ballerini che potrebbero danzare con voi dopo aver compiuto il loro dovere con le signore della casa. Ma le cose sono così cambiate da quando la cara Lady Kemnor è caduta ammalata, che forse non verranno proprio. Questo ballo pasquale era un importante argomento di conversazione per Mrs. Gibson. A volte vi si riferiva come alla propria prima apparizione in società da donna sposata, anche se per tutto l'inverno era andata in visita 2 o 3 volte la settimana. Poi cambiò le sue motivazioni e disse che vi riversava tanto interesse perché avrebbe avuto allora la responsabilità di presentare all'attenzione del pubblico sia la figlia di Mr. Gibson, e la propria. Per quanto la realtà fosse che praticamente chiunque fra i partecipanti al ballo aveva già incontrato le due signorine, sebbene non con un abito da gran sera. Eppure, scimmiottando le usanze dell'aristocrazia, per quanto ne sapeva, ella intendeva far debuttare Molly e Cinzia in questa occasione, che era da lei considerata alla stregua di una presentazione a corte. Non hanno ancora debuttato, era la sua scusa preferita, quando una delle due veniva invitata in una casa in cui non desiderava che andassero o dove non era stata invitata anche lei. Obiettò che non avevano ancora debuttato persino quando Miss Browning, amica di lunghissima data della famiglia Gibson, venne una mattina a invitare le due ragazze a un tè molto informale seguito da un qualche gioco. Questo tranquillissimo intrattenimento era stato organizzato come segno di riguardo per 3 nipoti di Mrs. Goodenough, due signorine e il fratellino che frequentava la scuola, che erano in visita dalla nonna. Siete molto gentile, Miss Browning, ma vedete, non mi va di lasciarle venire. Non hanno ancora debuttato, capite? Non fino a dopo il ballo di Pasqua. Finché non saremo invisibili, commentò Cinzia, sempre pronta con i suoi dileggi a esagerare la pretenziosità della madre. Siamo di rango così alto che il sovrano deve darci la sua autorizzazione prima che possiamo giocare a casa vostra. Cinzia era divertita al pensiero della propria altezza e del proprio portamento signorile, confrontati a quelli di una ragazzina docile e quasi in pluma nella stanza dei bambini. Ma Miss Browning ne fu in parte perplessa e in parte offesa. Non capisco proprio. Ai miei tempi le ragazze andavano dove la gente faceva piacere invitarle, senza tutta questa farsa di comparire negli abiti nuovi in un luogo pubblico. Certo, i grandi possidenti portavano le figlie a York, a Matlock o a Bath, per dar loro un assaggio della gaia società mentre erano nell'età della crescita. E la gente d'alto rango si spingeva fino a Londra. Le signorine venivano presentate alla regina Carlotta e forse partecipavano al ballo del suo compleanno. Ma per noi, gente semplice di Hollingford, insomma, conosciamo ogni fanciullo del villaggio dal giorno della sua nascita. E io ho visto molte ragazze di 12 o 14 anni andare a una serata per giocare a carte e sedersi quiete al loro tavolo. E sapevano comportarsi bene quanto una di quelle gran signore. Non si parlava di debuttare a quei tempi per nessuna che non fosse la figlia di un nobiluomo. Dopo Pasqua io e Molly sapremo come comportarci una serata per giocare a carte, ma non prima di allora, replicò Cinzia, pudica. Mia cara, a voi piace sempre fare battute e dire cose eccentriche, osservò Miss Browning, e io non risponderò certo del vostro comportamento. A volte vi lasciate trasportare dallo spirito. ma sono sicura che Molly sarà una brava signorina come sempre, come è sempre stata, e io la conosco da quando era bambina. Mrs. Gibson alzò le braccia per conto della figlia, o meglio, per evitare gli elogi a Molly. Non credo che avreste definito Molly una signora l'altro giorno, Miss Browning, se l'aveste trovata dove l'ho sorpresa io, seduta su un ciliegio, almeno a 6 piedi da terra, ve lo assicuro. Oh, ma questo non va bene, giudicò Miss Browning, scuotendo la testa all'indirizzo di Molly. Pensavo che avessi perso questi modi da maschiaccio. Le manca quella raffinatezza che la buona società sa manifestare in molti modi, disse Mrs. Gibson, ritornando all'attacco della povera Molly. Molto spesso viene di sopra facendo 2 scalini alla volta. Solo due, Molly, fece Cinzia. Insomma, oggi ho scoperto di poterne fare 4. Sono belli larghi e bassi. Mia cara figliola, cosa stai dicendo? Sto solo confessando che anch'io, come Molly, manco di quella raffinatezza che la buona società sa manifestare. Perciò, per favore, stasera lasciaci andare dalle signorine Browning. Garantisco io che Molly non si siederà su un ciliegio e Molly baderà che io non salga le scale in maniera inappropriata per una signora. Andrò di sopra con la docilità di una giovane donna che ha già debuttato e che è stata al ballo di Pasqua. Così si decise di lasciarla andare. Se fosse stato menzionato che Mr. Osborne Hamley sarebbe stato fra gli ospiti, la questione si sarebbe risolta senza alcuna difficoltà. Sebbene lui non ci fosse, era presente suo fratello Roger. Molly lo scorse subito entrando nel piccolo salotto, ma Cinzia non lo vide.